Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. La puntata di Ferry Boat, buongiorno a tutti, è dedicata al CSR, un po' come dire, così come abbiamo cominciato, ci avviamo verso la pausa estiva e rifacciamo il punto della situazione, partendo da due presupposti: il nuovo presidente dell'associazione CSR Manager e una proposta di legge. Ferry Boat lo aveva detto. CSR Manager Network conferma la responsabilità sociale, soprattutto donna, a cominciare dal presidente. Dalla responsabilità alla sostenibilità. Ecco la missione possibile e riuscita di IKEA nel mondo. L'azienda responsabile non solo per amore, ma anche per forza. Ecco la legge sulla CSR firmata bipartisan. Enzo Gante, il segretario, oggi quindi ha a bordo il nuovo presidente del CSR Manager Network, Caterina Torcia. Buongiorno Caterina. Buongiorno a voi. Comincia a diventare imbarazzante questa storia della donna che è sostenibile, delle donne che al vertice dell'azienda fanno andare meglio i titoli in borsa, eccetera. Cominciate ad essere invasive. Guarda, rispondo al volo con una battuta, come dire, prettamente linguistica. Decidiamo se poi siamo presidenti comunque, cioè presidente, presidentesse, direttori, direttrici, perché poi c'è un tema linguistico anche sui ruoli. Anche ministro, ministra, certo. Esatto, e quindi questa cosa della donna, i vertici, poi sembra, come dire, è la punta dell'iceberg, c'è anche un tema di definizione linguistica. Oltre al tuo, mi permetto di dire in apertura che hai parlato di al CSR, quindi maschile, mentre invece la CSR forse è femminile, chi lo sa, lo ma sviluppo chi lo sostenibile, sa, la sostenibilità, chi lo sa. Beh, certamente comunque tu sei il nuovo presidente di questa associazione, che peraltro è giovanissima, che riunisce i CSR manager, che sono una figura sempre più, come dire, che si sta rafforzando sia nelle competenze ma anche il numero. Sì, questo è vero, questo network di CSR manager conta oggi circa un'ottantina di persone che vengono sia da aziende che da società, diciamo così, di consulenza o da analisti finanziari. Il nostro obiettivo principale è proprio quello di rafforzare la figura e quindi innanzitutto di definirla meglio per ruoli e competenze, per definirla meglio per ruolo interno alle aziende, quindi anche in termini di governance e di organizzazione, e poi per esportare poi queste definizioni in un contesto sempre più grande, prima fra tutti le piccole e medie imprese e anche la pubblica amministrazione, che sono le due, diciamo così, grandi aree del nostro paese che si stanno dotando appunto di figure di questo tipo, che sono un po' catalizzatore di attenzione verso la sostenibilità, anche coordinatore di appunto attività che comunque, specie le piccole e medie imprese, già fanno. Bene, cominciamo a prendere a bordo adesso non un'espressione della piccola e media impresa, ma anzi l'espressione forse di una delle aziende più importanti, sicuramente più note, che è IKEA. Nel negozio IKEA di Corsico, a Milano, 304 geosonde penetrano nel terreno a una profondità che va da 87 a 125 metri, per un totale di 30 km di perforazioni, in un'area di oltre 10.000 metri quadrati. Questo sistema geotermico non ha un impatto duraturo sull'ambiente, perché è completamente sotterraneo. Grazie a tre pompe di calore, il sistema fornisce 1.600 kW di energia termica e 1.400 kW di energia refrigerante. Questo consente di risparmiare 300 tonnellate di petrolio all'anno, pari a 800 tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Abbiamo scelto questa scheda per presentare Stefano Brown, che è con noi. Salve Stefano Brown. Buongiorno. Responsabile ambientale per le operazioni retail di IKEA nel mondo. Abbiamo scelto questa scheda perché, voglio dire, dalle parole ai fatti, responsabilità sociale d'impresa non è soltanto anche comunicazione, cultura, responsabilità e attenzione verso il portatore di interesse, ma anche fatti concreti, come sembra questo negozio IKEA di Corsico. Stefano Brown, lei ha una bella responsabilità perché IKEA è un marchio, come dire, è quasi un'icona della responsabilità d'impresa. Sì, ci piace pensare che sia così, noi ci proviamo a come diceva lei, non solo parlare di responsabilità, ma anche fare delle cose. Insomma, prima di poter comunicare bisogna evidentemente avere dei fatti. L'esperienza di Corsico è stata una delle prime in Italia di quel tipo. Quella tecnologia adesso è stata esportata in diversi altri negozi, sia in Italia che all'estero, e direi che funziona molto bene. È stato un modo proprio per fare un po' un salto di qualità nell'area del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. Ecco, voi pubblicate ogni anno un rapporto di sostenibilità. Che cos'è? Un rapporto mondiale? Lo fate per paesi? Come funziona? Tra l'altro è lei che lo cura, no? Io curavo, diciamo così, la versione italiana quando mi occupavo delle operazioni italiane. Per il report che invece il gruppo IKEA pubblica a livello internazionale, contribuisco per la mia parte. Si tratta di un rapporto che viene pubblicato a livello internazionale, che copre tutte le attività del gruppo IKEA, quindi i negozi di cui mi occupo io personalmente, ma anche tutte le altre parti del business, quindi la supply chain e la distribuzione dei prodotti, ed è un rapporto che copre i progetti ambientali, i progetti sociali, ma anche l'attenzione per i collaboratori. Non è un rapporto certificato, non è un rapporto fatto secondo le regole tradizionali dei report ambientali, lo chiamerei più un resoconto, un momento che IKEA trova ogni anno per raccontare al proprio interno, ma anche all'esterno, le cose fatte. Dai parcheggi per famiglie numerose alla raccolta differenziata, che in qualche modo IKEA ha portato forse fra i primi anche in Italia, sono molte le iniziative del suo gruppo che denunciano un'attenzione speciale, specifica. Mi chiedo, è espressione della cultura nordica, della cultura, come dire, di quel paese, della cultura del proprietario, è adesso diventata ormai patrimonio genetico dell'azienda a tutti i livelli? Direi che è partita un po' in questo modo, nel senso che fa parte del DNA. Possiamo citare delle cose che IKEA ha fatto fino a 50 anni fa, probabilmente non consapevole del fatto che fossero cose positive per l'ambiente. Basti pensare ai pacchi piatti, basti pensare a alcune tecniche per la costruzione dei propri prodotti. A quell'epoca dubito che il fondatore dell'azienda pensasse agli effetti positivi sull'ambiente. Oggi sono dei casi perfetti, che quindi rappresentano, diciamo, la base culturale dell'azienda. Senta, lei vive nel quartier generale di IKEA? Io vivo in uno dei due, quelli che possono, quartier generale è una parola che non si può citare nel caso di IKEA, non c'è un quartier generale. È uno dei due, diciamo, centri principali dove si trovano tutte le funzioni di supporto. L'altra invece è proprio, si trova nel paese in cui è nato il fondatore di IKEA, e lì invece c'è tutta la parte di sviluppo del prodotto. Il fondatore di IKEA, che è una specie di mito, nel senso che esiste davvero, lei l'ha visto, sì, non è soltanto una leggenda. È un mito, ma è un mito vivente, no, c'è, è ancora bello arzillo. E vive, come dicono di lui, col minimo indispensabile. Sì, pare, quello che so, che effettivamente ha una vita piuttosto semplice. Frugale, diciamo così. Beh, speriamo che la sua sia un po' più ricca, no? Comunque anche lei è italiano, Stefano Brown? Io sono italiano, sì. Siete, sì. Nonostante il cognome, e quindi magari forse lassù non è che si stia benissimo dal nostro punto di vista, vero? Parlo dal punto di vista così ambientale, della parte godereccia della vita. Ci sono delle differenze, però nel momento in cui uno decide di muoversi, le prende in considerazione, le conosce, ci sono anche certamente anche gli aspetti positivi. Positivi incredibili. Grazie, adesso parleremo ancora di lei. Arrivederci, Stefano Brown, con... Grazie a voi. Con Caterina Torcia. Ecco, Caterina, questo dimostra però il ruolo di Stefano Brown, che è responsabile ambientale per le operazioni retail, quindi una roba enorme, ma è anche responsabile CSR. Questa è una contaminazione di genere, cioè appunto dimostra come il CSR manager assuma sempre di più ruoli anche operativamente importanti nell'ambito dell'azienda. Ma sì, perché innanzitutto le aziende, la prima riflessione importante che fanno è quella di guardare dentro se stessi alle cosiddette operations, cioè al proprio business, se lo, come lo realizza, come lo fa, come lo pensa, come lo costruisce nel caso di IKEA. Quindi lui citava, no, la supply chain, come costruiamo i nostri prodotti fino ad arrivare appunto alla distribuzione, di cui mi sembra essere lui il responsabile, e quindi lì i piani di efficienza energetica, la qualità dei prodotti eccetera. E poi un altro grande momento è come, come dire, si esportano poi questi contenuti al grandissimo pubblico, di cui aziende come IKEA o anche Vodafone, di cui dove io lavoro, hanno milioni di contatti quotidiani, e quindi il coinvolgimento del cliente su questi temi è decisamente molto rilevante. Sono due piani quindi diversi, no? L'azienda su se stessa, diciamo così, guardando al proprio business di riferimento, e l'azienda e i suoi clienti, la società civile nel suo complesso, per azienda come, per, esatto, come IKEA, come Vodafone, che hanno milioni appunto di contatti. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ecco il traghettatore insergante, abbiamo fatto un viaggio lassù, dove, insomma, dove c'è freddo, anche adesso, dove nasce IKEA, il grande mito di IKEA. E ritorniamo a sud, andiamo a Torino, dove c'è Mina Piccinini. Buongiorno Mina Piccinini. Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mina Piccinini è responsabile della divisione sostenibilità del gruppo Fiat, quindi stiamo parlando di responsabilità sociale d'impresa, lo facciamo al massimo livello internazionale, ovviamente in questo momento anche al massimo livello di notorietà e di visibilità. E abbiamo notato che, per esempio, Mina, non c'è la parola CSR nel tuo bigliettino da visita, sostanzialmente. Come mai? Beh, guarda, noi in Fiat parliamo, amiamo parlare di sostenibilità, che da parte questo il dibattito concettuale che dura ormai da anni, e questo capitalismo lessicale. A nostro avviso sostenibilità è il nome che meglio esprime l'attività che svolgiamo. Compendia, dici, tutti gli elementi, compresa la responsabilità sociale d'impresa. Esatto, sì, responsabilità sociale, ambientale e anche economica. Quindi. Ecco, già, visto che abbiamo Caterina Torce, presidente della, ecco, presidente, condivide o non condivide questa posizione di Fiat, poi, oltre che di Mina Piccinini? Condivido sicuramente. CSR, può, comunque l'acronimo potrebbe già diventare, no, Corporate Sustainability Network, ad esempio, quindi condivido assolutamente questo. Anche nell'azienda per cui lavoro abbiamo già preso la decisione di sostituire la S con la sostenibilità. Ah, ma non è una battuta, realmente potrebbe succedere? Non è una battuta, no? Ah, sì, potrebbe, esatto, quindi la giusta decisione che Fiat ha già preso, anche sembrerà un esercizio lessicale, come ci siamo detti in apertura sul tema della sostenibilità, lo sviluppo, la sostenibilità, in realtà dietro l'esercizio lessicale ci sono poi il tentativo di mettere ordine in attività concrete, claro, che ciascuna azienda fa, che sono molto vaste. Perfetto, mi sembra perfetto, vi siete proprio incrociate. La Mina Piccinini è responsabile di questa divisione sostenibilità, che peraltro è di recente costituzione, riferisce direttamente a Marchionne, stila il bilancio sociale, insomma una posizione complessa ma anche rilevante in azienda, Mina. Assolutamente, guarda, innanzitutto credo che comunque sia doveroso sottolineare che la sostenibilità per Fiat non è una sensibilità sporadica o qualcosa di troppo recente, perché in Fiat l'attenzione per il sociale e l'ambientale hanno comunque origini molto lontane nel tempo, che risalgono alla sua nascita e che si sono evoluti con l'azienda stessa. Infatti possiamo pensare al contributo che ha dato l'azienda alla diffusione della mobilità, alla creazione di posti di lavoro, al servizio di assistenza sanitaria per i dipendenti, al supporto agli studi dei loro figli, e poi al costante impegno che Fiat ha sempre avuto nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente. Questa divisione sostenibilità realizza il bilancio sociale, quali altre competenze avete? Qua c'è un grande gruppo, poi questo è il problema, come la Fiat, come si muove su questi temi? Guarda, come hai detto tu, c'è stata una forte accelerazione negli ultimi anni, e proprio a circa metà del 2008 i tempi erano maturi per fare un passo avanti, è stata costituita questa unità che si è dedicata interamente a queste tematiche. Questa unità ha un ruolo principale di facilitatore, e poi io dico facilitatore, però al tempo stesso, nel momento stesso in cui lo pronuncio, mi sembra limitante, diciamo che è un motore di cambiamento. Ci piace pensare all'unità di sostenibilità come una sorta di untore, un promotore di un contagio assolutamente positivo all'interno dell'azienda. Infatti nasce con lo scopo di integrare sempre di più, in modo sempre più strutturato, i temi ambientali e sociali nella strategia di business, contribuendo alla gestione dei rischi, all'ottimizzazione dei costi e al miglioramento della reputazione presso gli stakeholder. Beh, molto bella questa motore del cambiamento, mi piace, sono sicuro che piace anche al presidente del CSR Manager Network, vero? Sì, sì, io... È bella come espressione. Siamo assolutamente motore di cose che non si farebbero mai, io lo dico ancora più. Beh, forse Nina... è anche un po' buccia della coscienza, mi permetto di dire, no? Per cui facciamo delle cose o impediamo che se ne facciano delle altre, quindi un po' entrambe. Nina, è una bella frase, fra l'altro detta da una persona che lavora in Fiat, voglio dire, sembra quasi un gioco di parole, no? Grazie per la tua partecipazione e buon lavoro, Nina Piccinini. E da Torino, che comunque, voglio dire, nel bene o nel male, secondo una parte dei sindacati, male, non tutti, da Torino, dalla casa della Fiat, ci rispostiamo a Roma, laddove nascono le leggi, in particolare quelle di Ermete Realacci. Buongiorno onorevole. Buongiorno, buongiorno. Responsabile della Green Economy del PD, quindi comunque stiamo parlando di uno dei più esperti, massimi esperti italiani sul tema della Green Economy, che ha tirato dal cassetto, è il caso di dirlo, onorevole, la legge sulla CSR, che è datata qualche anno fa, ma adesso forse potrebbe essere rilanciata. Della scorsa legislatura, l'abbiamo aggiornata tenendo conto anche, diciamo, delle suggestioni che ci venivano dalla crisi, è stata ripresentata, è stata sottoscritta da oltre 100 parlamentari sia dell'opposizione che della maggioranza. I primi firmatari siamo io e i colleghi Vignali e Baretta. Lo scopo di questa legge è sostanzialmente, diciamo, rafforzare la procedura della responsabilità sociale e far capire anche, questo è un po' l'impianto culturale, che non siamo di fronte, per capirci, a una pratica di anime belle, no? Ma siamo di fronte a uno strumento che consente di rendere l'economia anche più competitiva, soprattutto dopo le nuove domande che la crisi ha posto. E questo si collega ovviamente molto con la sua soft economy, cioè è un unicum, no? C'è l'idea nella sostanza che in generale nel mondo e in particolar modo poi nel nostro paese, diciamo, un'economia più competitiva è anche un'economia che mantiene un legame più forte con il territorio, con le comunità, col capitale umano, con la coesione sociale, insomma, che è un'economia a misura d'uomo. Ecco, la legge, onorevole, quando diciamo legge vuol dire le aziende devono essere responsabili socialmente oppure ci sono delle regole da rispettare? No, oppure no, ovviamente com'è la storia? La responsabilità sociale di impresa non può che essere una procedura volontaria, però la legge che noi abbiamo presentato in qualche maniera stabilisce degli standard e crea delle sedi in cui queste procedure volontarie vengono verificate, e a valle di questa verifica c'è anche un'azione da parte dello Stato sia sul fronte della pubblicizzazione, del rendere note le migliori pratiche, sia sul fronte anche di concedere delle agevolazioni alle imprese che queste pratiche poi portano avanti. Voglio ricordare che, pur essendo io un grande difensore e promotore della responsabilità sociale di imprese, appunto anche come chiave di sfida al futuro delle imprese che spinge a fare il meglio, non posso dimenticare che ci sono state imprese che facevano la CSR e che hanno fatto dei risparmi incredibili, perché poi se non c'è una sede in cui imprese che adoperano la CSR soprattutto come marketing, per capirci, ma non come pratica coerente, vengono in qualche maniera discusse, c'è il rischio che la pratica si svaluti. Caterina Torcia, tu che sei quella che rappresenta di più il mondo della CSR dal punto di vista manageriale, hai l'occasione di dire la tua all'onorevole Realacci, proprio, come dire, fai appena in tempo. Sì, grazie. Poi ci sono state varie occasioni di confronto pubbliche, non sulla legge. Il concetto fondamentale espresso anche due parole fa è quello di guardare alle attività delle imprese con una logica di lungo periodo, no? E quindi credo che, sia pur nella sua volontarietà, la legge ci aiuti a immaginare azioni e poi soprattutto a rendicontarle, quindi raccontare veramente il valore aggiunto che si porta alla società civile con questo nel lungo periodo, laddove le imprese guardano evidentemente forse con più attenzione al profitto di brevissimo periodo, per le quotate addirittura ogni 3 mesi piuttosto che comunque di anno su un anno. Io credo che questo concetto, no, del lungo termine, quindi il futuro che ha appena citato per me Telealacci questa visione è assolutamente fondamentale per calare poi le logiche di responsabilità d'impresa nelle stesse imprese. Onorevole, questa legge stavolta ce la facciamo? Spero proprio di sì, devo dire che è abbastanza positivo, anzi è molto positivo il fatto che, ripeto, abbiano firmato senza che si siano state esercitate ovviamente pressioni particolari oltre 100 parlamentari, credo siano 120 circa. No? Di entrambi gli schieramenti, quindi c'è un consenso. Vuol dire che, guardi, io non è che mi illudo, però vuol dire che questa chiave di visione della responsabilità sociale d'impresa è ritenuta oggi una via utile anche per pensare all'economia nel dopo crisi, insomma, per fare i conti con quello che è stato un abuso di finanza tossica, per riportare l'economia vicino, diciamo, alle grandi sfide che l'uomo ha davanti. Grazie onorevole, in bocca al lupo per la legge a questo punto. Arrivederci. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Presidente, dobbiamo chiudere perché siamo proprio alla fine della trasmissione. Quanto è importante questa legge, poco o tanto, per il futuro della responsabilità sociale? Secondo me è importante nella logica che diceva l'onorevole Laracci di condivisione il più allargata possibile dentro il mondo delle istituzioni, quindi 100 parlamentari sono un numero importante perché la responsabilità d'impresa ha ormai delle ottime pratiche sia nelle grandi, nelle piccole, nelle medie imprese, ha un sapere accademico importante per cui abbiamo illustri professori, ragazzi che si laureano in tutte le università, direi sicuramente più importante nei Atenei ma in tantissime università, quindi c'è il sapere accademico, ci sono le buone pratiche, ecco, se le istituzioni ci aiutano a allargare il campo anche per definitivamente chiarire il concetto che responsabilità d'impresa non è filantropia, tanto per dire poi una cosa, no, che è un errore in cui spesso si cade, ma responsabilità verso la società civile tout court, credo che sia importante. Il concetto Bene. Della volontarietà ha un suo senso, ovviamente. Certo. Grazie Presidente, buon lavoro. Ce ne avrà sicuramente tantissimo da fare. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Feribot finisce qui. Grazie anche alla regia di Fabio Cantadori, in redazione ad Anita Panizza. Vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione sul sito di radio24.it. A risentirci alla prossima puntata.